Analog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Frigio al fluoro presenta Mirna Lisi, la bocca della verità. Signora Lisi? Sì? Senta, due parole. No, niente sulla pittura, per favore, non me ne intendo. Per questo lascio parlare i critici. Beh, allora qualche domanda sulla bellezza eternata dagli artisti, cantata dai poeti. C'è chi per una bella donna si è tolto la vita. Oh, beh, non per niente la bella donna è un mortale veleno. Ma è anche un formidabile medicamento. Mi creda, preso a dosi molto, ma molto piccole. Che resta nella memoria collettiva di una bella donna quando muore? Preparavo Melog nemmeno un'ora fa. È uscita la notizia che è morta Mirna Lisi a 78 anni. Ho pensato questa mattina di fare questa domanda al mio pubblico. Mirna Lisi probabilmente è la parte più giovane di chi ascolta la radio, la conosce, che l'ha intravista come coprotagonista di qualche sceneggiato nella TV pubblica di sfuggita, entrando uscendo da casa quando c'era una nonna addormentata davanti alla televisione. Io nemmeno ne conservavo una memoria così fulgida e mi sono documentato nel giro di una mezz'ora fa. Era in effetti una donna splendida. L'avevano chiamata gli americani, alla Paramount, perché cercarono una persona che seguisse nel successo Marilyn Monroe. Rifiutò il ruolo di Barbarella, che poi fece Jane Fonda, una delle icone più indimenticabili degli anni 60 e 70, qualcosa che non ci dimentichiamo. Era veramente bellissima, era di una bellezza che a guardarla oggi sembra improbabile, non sembra più legata a nessuno dei canoni contemporanei. Nel nostro paese divenne famosa per essere quella con la cui bocca poteva dire quello che voleva. Mirna Lisi era la testimonial di un dentifricio. Faceva parte di una signora bellissima, sempre con il marito, sempre un perfetto cretino come è stereotipo nella commedia italiana, che una donna bellissima si accompagni sempre un uomo totalmente idiota, mai all'altezza, ma lei era veramente bella. Si trovava in delle situazioni sociali consuete, normali, banalissime, in cui il marito magari andava a cena a casa del suo capo, la moglie del capo suonava al pianoforte, era orribile, lui faceva finta che fosse una musica bellissima. Mirna Lisi, la moglie, siccome aveva la bocca che era impossibile che lei mentisse, diceva che questa era una terribile esecuzione, e li cacciava di casa, il marito sveniva, ma lei con quella bocca poteva dire ciò che voleva. Esiste oggi un modello analogo nel pantheon delle bellezze che riempiono i nostri sogni, reali o posticci, che hanno una bocca con la quale possono dire ciò che vogliono? No, perché non hanno una bocca che è la loro. Oggi tutte le belle donne che vengono elencate, che vengono e che costellano l'Olimpo dei sogni irraggiungibili degli italiani, hanno bocche che non sono le loro. Quindi oggi dedico la puntata a Mirna Lisi, l'ultima donna con la cui bocca poteva dire ciò che voleva. L'anticaria al fluoro superattivo presenta 100 secondi di domande e risposte con Mirna Lisi, la bocca della verità. Mirna, vogliamo parlare dei divertimenti casalinghi serali? A quali fonti può attingere una donna per ricreare la sua serata? La televisione, un buon libro, una visita di amici. Comunque, i divertimenti serali devono essere un po' come i cibi. Vale a dire? Delicati, altrimenti non lasciano dormire. 800240024. Qualcuno di voi ha memoria di Mirna Lisi nel suo più splendido momento di affermazione artistica? Qualcuno di voi ha una idea vaga di cosa possa essere o di quale possa essere un modello femminile non inquinato da interventi artificiali, da ritocchi, da rimozioni, da riplasmazioni? Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno a tutti. A Giuseppe Sansonna, in quanto esperto di cinema questa mattina, in quanto massimo artefice della distensione nei confronti di Cuba e della caduta dell'embargo con il suo film fatto con Thomas Milan, è stato il momento, lo stacco cruciale per cui ha deciso Obama di togliere l'embargo a Cuba. Questa mattina ci dà velocemente, nei tempi in cui ha potuto anche lui raccogliere le idee, un ricordo di Mirna Lisi. Beh, Viernalisi è la bellezza assoluta, petrarchesca, così perfetta da sfociare nel metafisico. Non a caso rifiutò appunto Barbarella e rifiutò la copertina di Playboy, la carnalità, perché lei era al di là della carne, al di là di tutto questo. Forse l'Eva Kant che non è mai stata, appunto, quasi da sfociare nel fumetto, nella bellezza, nell'ideale assoluto degli anni 60. Ecco, come mai, scusami Giuseppe, nel nostro star system, pur costellato di bellissime donne, almeno nell'esordio Viernalisi fu immortalata come la testimonial di un dentifricio, in cui tutta, diciamo, la parte essenziale, il condensato di questa bellezza apollinea, perché era bella ma senza avere nulla della Marilyn Monroe di cui doveva prendere il posto nella mente degli americani, perché non c'era assolutamente nessun cedimento. C'è una scena bellissima con Nino Manfredi che gira intorno alla moglie Viernalisi, che legge un libro che non le si concede, e la guarda, sono i particolari, la caviglia, il ginocchio, il polpaccio, le mani, il collo, si sente esplodere il desiderio di questo marito respinto e frustrato, ma non c'è nulla di volgare. Perché lei era così algida da sembrare bionica, appunto, al di là della carne, al di là della carnalità, sospesa e quindi legata alla pop art della pubblicità, perfetta per quello, ti dicevo Eva Kant, non a caso, in Signore e Signori di Germi, lei incarna per l'appunto il desiderio, quello però non sensuale, ma quello puro, la poesia nel mondo gretto della provincia veneta e di fatto quella italiana che nascondeva gli orrori nascosti sotto il boom, sotto l'ipocrisia borghese di quel periodo. E Gastone Moschini è innamorato di un amore puro, vuole sfuggire a una Nora Ricci oppressiva e si innamora di questa cassiera ricambiato, ma la purezza del loro legame, che non vuole essere fedifrago ma ufficiale, e invece viene osteggiata dalla comunità. Cioè, non ci può. Fermo un attimo, facciamo sentire questa scena in cui Gastone Moschini, attizzato come un riccio, si avvicina alla cassiera, pudibonda ma allo stesso tempo estremamente spudorata, e lo coglierete dall'uso lessicale improprio di un termine che oggi significa una cosa e allora significava tutt'altra cosa. E perché sono legato a un'altra donna? No, neanche questo importa. Se è vero amore? Forse c'è qualcun altro? No, al momento non c'è nessuno. Ma allora perché? Sposati, venite solo per divertirvi, per voi la donna è un trastullo. No, Milena, non lo dica. Milena, io la amo. Lei mi ama, Milena. Ma non lo so, non saprei, forse, col tempo. Ma perché mentire a me stessa? Sì, ragionier Bisigato, io la amo. La cassiera è ragioniere che le si dichiara. Nel bar, mentre è in esercizio la sua funzione, a un certo punto lui la vede titubante, la vede ansiosa, dice: ma cosa ha, signorina? Dice: non ho niente, ho un orgasmo. Ma allora, in quel contesto, a semplicemente dire sono in ansia, nulla a che fare con quello che oggi avrebbe un significato totalmente fuori da quel contesto. Milena, la notte non dormo. Troppi caffè, ragioniere, che io dico sempre. Non scherzi, la prego. Milena, sono innamorato di lei. Ragioniere, io conosco la sua signora, è tanto distinta, e la viene sempre a mangiare le paste da noi. Non me ne parli, per piacere. Posso almeno sperare, Milena? Ma cosa dice, ragioniere? No, Milena, non pianga, forse l'ho offesa. Io non volevo. No, non sei offesa, sei orgasmo, grazie. Cos'è orgasmo? Al tempo nessuno immaginava il significato potesse avere questa parola, tantomeno le signore, perché ancora non era eticamente, socialmente ammessa o dichiarata l'esistenza di un probabile orgasmo femminile. Mario, buongiorno. Nicoletti, buongiorno. Allora, volevo solo raccontare un paio di episodi velocissimi, senza far perdere molto tempo. Allora, io a 16 anni ero, come tutti i ragazzi di Roma, ci siamo iscritti al collocamento dello spettacolo, come tu penso saprai, e venimmo contattati per fare il film La Cicala. Si facevano delle scene in Via L'Angelico, in un posto dove l'attuata aveva trovato per gli interni, e praticamente tutti dicevano di questa Clio Goldsmith che era l'astro nascente in quel momento del film, soprattutto sotto l'aspetto un po' brillante, erotico. Si ricorda che anno era esattamente? Guarda, me lo ricordo benissimo, io sono del 64, credo fosse il 1980. Era dell'80, la cicala dell'attuale era dell'80. Infatti. Sì, e la cosa divertente poi, ecco, finisco e ti lascio. No, ma è una testimonianza diretta, no, di conoscenza. Guarda, una cosa impressionante, una donna di una bellezza unica. Tu l'hai vista da vicino, quindi? Io l'ho vista, sì, da vicino, perché giravano queste scene lì in quegli interni e noi ve ne Che scena si girava nell'interno in cui ma tu hai fatto figura? Erano scene tratte da un tipo un saloon, un bar, cose di questo genere. Se ti vai a rivedere il film lo capisci su, perché stanno lì al bancone, cioè, si offre da bere, è una scena molto semplice, però è durata tutta la giornata. E poi volevo raccontare un altro episodio per far capire la bellezza di questa donna, perché tanti se ne sono resi conto, ma è veramente un episodio carinissimo. Ho avuto la fortuna di fare l'ufficiale dell'esercito e capito in compagnia con Corrado Pesci, che era il figlio di Franco Pesci. Tra l'altro lui poi sceglie la strada degli ufficiali dei carabinieri e quindi ci lascia. Però abbiamo fatto in tempo a fare il giuramento insieme. Avete detto lo duro insieme. Te lo puoi immaginare, esatto, te lo puoi immaginare cosa può essere successo il 30 di agosto a Cesano di Roma quando c'è stato il giuramento. È venuta la madre. Franco a vedere il figlio che giurava, è stata una, praticamente il parterre era tutto per lei, una donna eccezionale. E tu avevi detto al figlio che avevi fatto il figurante in un film della madre? Sì, chiaramente gliel'avevo raccontato, sì, ma era una donna particolare, mi ha raccontato tante cosine lui, che ti posso dire? Tante scelte che non ha fatto, cioè, poteva fare ancora tanto di più. Ad esempio, cinema. Vediamo se ne ricordi una. Non ricordo, cioè, ma film che poteva fare, che lui mi diceva, ma lo sai che era stata scelta mamma, invece poi hanno preso la Lore, hanno preso la Lollo, hanno preso, cioè, cose di questo genere, però sai, a 16 anni, a 18 anni, a 20 anni, poi queste cose si perdono. Però una bellezza, io la definirei innaturale, per quanto è quello che aveva detto appunto il nostro Sansonna, una bellezza quasi aliena. Giuseppe, qualcosa puoi aggiungere? La testimonianza diretta, immediata, spontanea di un ascoltatore che ha fatto il figurante in un suo film e conosce il figlio, il giuramento nella scuola ufficiale dei carabinieri di Cesano, arriva a Virnalisi. Prova a immaginarti la scena. No, ma io mi ricollego al film che lui ha citato, alla Cicala dell'80, in cui quel feroce, perverso entomologo geniale che era l'Attuada usa la sua bellezza un po' scorticata, insomma è una cantante, è una grande cantante decaduta, costretta a prostituirsi, quindi c'è questa atmosfera sordida e però che umanizza un po' quella bellezza, appunto siamo a cavallo, siamo agli inizi della decadenza del cinema italiano e quindi diventa un po' un'icona stropicciata e sintetizza benissimo quel periodo, Virnalisi in quel momento, con quel film. Diciamo la parte più stropicciata l'ha fatta quando ha fatto la nonna nell'edizione cinematografica di Vado e ti porto al cuore della Tamaro. Quella è stata purtroppo, ahimè, l'unica nota. La morte civile a tutti i sensi. Sì. Pensare a una così fulgida immagine di bellezza, poi così mortificata nel regno della melassa sentimentalista e sentimental parrocchiale che tanto piace al nostro paese. Fermiamoci un attimo, diamo il traffico, respiriamo un attimo. Virnalisi, la ricordiamo questa mattina. Melog, cronache meridiane. Senta Virna, per divertirsi lei preferisce la TV, la radio o il giornale? Il giornale. Oh bella, e perché? Perché con la televisione e la radio non riesco a fare i pupazzetti di carta per mio figlio. Cerchiamo di parlare seriamente, signora. Lei ha detto all'inizio che le piace ricevere in casa, è vero? Ah, sì, mi piace molto ricevere mazzi di fiori, regali. Ma no, si parlava di ospiti. Non le piace organizzare, lei che è attrice, letture diversi, non so. Ci ho provato, sa, ma ho scoperto che al mio cenacolo letterario non venivano tanto per ascoltare versi divini quanto per farmi fuori vini diversi. Il che è molto diverso. Questa è Virna Lisi, che può dire quello che vuole, la bocca della verità, incapace di mentire, ma tutti le perdonano la sua sincerità, che è disarmante e mette in precarissimo equilibrio tutte le certezze. Lei, attrice, che fece tante cose in televisione, piuttosto che guardare la televisione e ascoltare la radio, importantissima ancora al tempo di questo carosello dedicato al dentifricio, faceva i pupazzetti per il figlio, che poi fece l'ufficiale dei carabinieri, che poi fece il giuramento a Cesano insieme al nostro ascoltatore. Dino, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione. Comunque volevo dire che la grande Virna Lisi, io ci sono cresciuto, diciamo, perché ho 67 anni e ho seguito la sua carriera, la sua bellezza. Una donna stupenda, e sono vicino alla sua famiglia in questo momento, sono emozionato, come si vede. Perché per lei, diciamo, ha rappresentato un modello di ispirazione onirica alle sue fantasie amorose, probabilmente, per questo è così emozionante. Ma no, io ho ammirato la bellezza di questa donna e la sua semplicità, e ancora oggi, anche se aveva 78 anni, era una vera signora. E sono poche le grandi attrici che hanno questa caratteristica. Sì, però vede, ce la ricordiamo tutti perché è morta. Non è che l'avessi vista così presente ultimamente nel ricordo generale del nostro star system. Ancora riportiamo in giro bellezze imbalsamate che vanno in giro, sì, fanno vari di navi, fanno le star dei grandi personaggi. Ma proprio grazie alla sua semplicità, non quelle bellezze apparenti, truccate, rifatte, eccetera. Lei era un qualcosa di diverso, era la semplicità in persona. Va bene, è chiaro, la lascio al suo ricordo e alla sua commozione. Mirko, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Niente, a quello che avete discusso con l'ascoltatore precedente posso aggiungere soltanto una cosa, che io a questa semplicità e a questo bel modo di invecchiare della grande Virna ho voluto dare Virna come nome a mia figlia, che adesso ha 14 anni tra poco. A lei 14 anni fa dedicò sua figlia a Virna. Sì. Sì, perché era veramente un esempio per noi, che comunque noi siamo nel teatro e insomma vediamo quanta fatica facciano le attrici, soprattutto quelle molto belle, ad accettare di invecchiare, mentre insomma la Lisi dava... Beh, lei era bella davvero, oggi sì, accettare esatto. Di invecchiare significa doversi andare come alla pompa di benzina, darsi ogni volta una pompatina agli zigomi nelle labbra, e lei era quello e quello era, fine. Eddie, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, le racconto una cosa molto veloce. All'inizio degli anni 80 noi andavamo sempre a vedere i Gran Premi, andavamo via coi furgoni, eravamo molto giovani, andavamo coi furgoni con sui motorini a Monza e tutti gli anni andavamo a Monte Carlo. Ma con i motorini che ci facevate poi? E andavamo poi, avevamo le tende, c'è anche appello, dormivamo e con i motorini andavamo in giro sui circuiti, in giro per Monte Carlo. Ah, in giro correvate per sulla pista, facevate i gradassi con i motorini. Sì. Con i ciao allora, i motorini che avevamo allora. Allora a Monte Carlo il nostro divertimento era anche le sere precedenti Gran Premio andare davanti all'Hotel de Paris per vedere le donne più belle, le macchine più belle e queste cose. E voi con ciao, quelli magari con le Rolls Royce e sì, le pellicce. Rolls Royce, macchine da sogno, l'Excalibur, macchine viste solo e voi con il ciao, con il ciao. E noi con il ciao, ragazzi di campagna, il ciao. E niente, e guardavamo queste donne e stupende la che scendevano dalle auto meravigliose, e ricordo che quella in quell'occasione lì arrivarono delle donne stupende, arrivò Ira Fustenberg, per dire il personaggio, e poi arrivò Virna Lisi con il marito, con una Mercedes blu. Quando scese la Virna Lisi, cioè siamo rimasti tutti a bocca aperta, perché era una dea, non era una donna, tanto era bella e semplice confronto a Ira Fustenberg, per esempio, che era già rifatta allora, era già un po' pompata, sì, era già tutta pompata, era tutto un altro discorso. Lei era semplice e meravigliosa, penso che sia la donna più bella che ho visto in vita mia. Grazie Luigia, buongiorno. Finalmente chiama una donna, sennò chiamano solo uomo. Salve, sì, grazie. Ascolti, io chiamo come donna perché oltre che averla, ho 64 anni, quindi ho seguito tutto il suo lavoro come attrice dagli inizi fino ad ora, perché era una donna che ha saputo invecchiare. Io mi ci sono ritrovata sempre. Anch'io risultavo una bella donna, però che cosa perché parla al passato? Io ero una bella donna. Vabbè, ma c'ha 2-3 anni più di me. Se lei si autoqualifica come vecchia, io mi deprimo, scusa. No, tranquillo, non sono vecchia. Però lei ha saputo, con la sua capacità, la sua intelligenza, perché era una donna, credo, intelligente, non l'ho conosciuta ovviamente personalmente. Si direbbe di sì, da, anche dalla parte che recitava, sembrava una donna intelligente. Poi non... Bravo, e soprattutto coerente con il suo senso della famiglia, che conosciamo perché lei l'ha sempre detto, ma soprattutto nella sua figura di donna, anche adulta, negli ultimi lavori che ha fatto in televisione, l'abbiamo apprezzata proprio per la sua positività, per il coraggio che trasportava, proprio che ci dava coraggio. Beh, se no facciamo i santini, poi sembra che i coccodrilli erano sempre questa veste, invece no, la ricordiamo perché era fantasticamente bella, poi quello che ha fatto nell'età avanzata, giusto, professionalmente ci fa molto piacere. Lei non ha mai organizzato feste da ballo in casa sua? Oh sì sì, tutte le volte che devo spostare i mobili per le pulizie generali. Come giudica i giochi di società che si fanno di solito con gli invitati per divertirli? Chi si accontenta gode. E lei gradisce gli invitati che per tenere su la serata raccontano magari delle barzellette un po', diciamo, piccanti? Ma di solito mi annoiano molto. Davvero? Sì, perché raccontano barzellette che io so già. Ho detto qualcosa che non va? Con quella bocca pulire ciò che vuoi. Lorodont? Pensate se nelle ultime vicende, delle penultime vicende, diciamo non proprio le ultimissime, in cui il racconto della barzelletta era legato a bocche che naturalmente non erano proclamate per il fatto di dire sempre la verità, fosse stata risumata una battuta del genere. Fabrizio, buongiorno, altra testimonianza. Buongiorno a te. Tanto volevo dire che io negli anni 60 non c'ero, io sono solo del 70. Però ho sempre seguito film di quell'epoca, mi sono sempre piaciuti, e Birnalisi l'ho sempre seguita, io ne parlo spesso anche con mia madre quando mi capita di vederla. Volevo dire che anche che tra l'altro mia madre è stata anche a scuola con lei quando andava a scuola. Ah, con un'altra testimonianza diretta, sua madre è stata compagna di classe di Birnalisi? Sì, al liceo. Al liceo sì, perché mia madre abitava in Trastevere e anche Birnalisi frequentava quella scuola. Comunque io... Era marchigiana, comunque era stata importata... Era d'Ancona. E cosa diceva sua madre della compagna di classe Birnalisi? Che a parte che era bellissima da giovane, sarà stata la migliore di tutta la classe, di tutto il liceo. Della classe sì, era tra, sicuramente, ma anche del quartiere, la più bella, forse anche di Roma. Sì, mia madre mi dice spesso che non si è mai sentito parlare di lei, cioè non ha mai fatto parlare di lei, un pettegolezzo, sa, anche a scuola, sa. Era bella, ma diciamo intoccabile. Era anche una persona, io poi vedendola sullo schermo devo dire una classe, un'eleganza che a molte attrici, a molte donne purtroppo di oggi manca, a queste donne, diciamo. Beh, non donne, possiamo diciamo piangere, così, ahimè, le gravi lacune della nostra epoca, ma no, possiamo soltanto, comunque, senza rammarico e senza naturalmente senso di compassione, dare gloria e onore a una donna che ci ha fatto sognare e farà sognare anche i posteri, semmai se la ricorderanno. Onore a Birnalisi, scomparsa.